get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte. Quella che state ascoltando è la 281esima trasmissione del coordinamento lesbiche romane attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87,9 MHz. Oggi qui in radio siamo Caterina che vi sta parlando, Lucilla e Rosina. Stasera ascolterete la voce di una nostra compagna, Maria Paola Fiorenzoli, della Casa Internazionale delle Donne, e incontreremo insieme a lei Mary Read e Anne Bonny, impavide pirate vissute nel 1700. Lucilla poi ci farà un'introduzione molto interessante che parlerà sempre di queste due pirate, e quindi buon ascolto a tutte. Allora, buonasera a tutte, eccoci qui per parlare di Mary Read e Anne Bonny, le pirate. Intanto le pirate affascinano tutte noi, e noi lesbiche bambine, da bambine sicuramente desideravamo la vita avventurosa delle pirate. Ma veniamo al dunque, perché delle donne in quegli anni vestissero abiti maschili e intraprendessero vite così avventurose sembra essere un grande azzardo. Abbiamo vari esempi di travestitismo nella storia, ma la vita in mare da pirate sottoponeva a rischi enormi. Amore per la libertà, voglia di decidere il proprio destino, non riconoscersi in quello imposto dalla cultura e dal potere. Amare le donne. Ma parlare di identità sessuale è realmente prematuro. Questo concetto, così definito, appartiene al XXI secolo, mentre qui stiamo nel XVIII. E allora, sentite cosa dice Nerina Milletti in Fuori della norma, pubblicato nel 2007 per la Rosenberg e Sellier. Il fatto che nemmeno oggi c'è una definizione univoca di lesbiche potrebbe creare un ulteriore ostacolo alla comprensione del passato. Ad esempio, lesbica è anche la passing woman, ossia la donna che fingeva di essere un uomo e si dichiarava tale, assumeva gli abiti, un nome e un'identità maschile, corteggiava le donne e poi si sposava? E nel caso, la moglie, che nelle cronache dichiarava quasi sempre di essere all'oscuro del vero sesso del marito, era lesbica anche lei? Cosa rientra nella storia lesbica non è infatti un concetto ovvio, nemmeno per chi si riconosce come omosessuale. Un ampio dibattito storiografico che non ha praticamente toccato l'Italia per lo scarso numero di lavori pubblicati e per la mancata attenzione critica della ricerca ufficiale ai medesimi, ha mostrato come le differenti interpretazioni su chi sia una lesbica, se sia legittimo utilizzare questa parola riferendosi ad epoche premoderne o a chi così non si definiva, abbiano orientato differentemente la ricerca delle storiche. Se è lesbica una donna, i cui investimenti emotivi o sessuali ed erotici sono consapevolmente diretti verso altre donne, la questione dell'identità può divenire cruciale. Le identità, però, intese come essenze e quindi come strutture intrapsichiche, non si possono dimostrare. L'analisi storica, al massimo, le può imputare sulla base di comportamenti e dichiarazioni. Come punto di riferimento per una storia delle lesbiche sono dunque piuttosto insicure. Ciò nonostante, ci consegnano importanti strumenti di comprensione, ad esempio le ambivalenze, il conflitto tra desiderio e proibizione, le identificazioni di genere, i meccanismi di difesa, gli oggetti d'amore concreti o fantasticati, il desiderio e l'immaginario. Di difficile utilizzo se consideriamo l'identità lesbica non come causa, ma solo come effetto di una performance più o meno consapevole di reiterata citazione. Quindi ci sembra che in questo caso Milletti chiarisca molto questo aspetto. Ma torniamo a Mary e ad Anne. Entrambe furono vestite da maschi in tenera età per sfuggire a destini infausti, date le loro origini discutibili per i codici di quel tempo. Mary prenderà il posto del fratellino morto travestita dalla madre per essere mantenuta dalla ricca nonna. Anne, figlia illegittima di un ricco avvocato e della cameriera, travestita dallo stesso padre per tenersela accanto ed evitare lo scandalo. E poi l'avventura. A questo proposito la parola alla nostra ospite. Chiederemo a Maria Paola tutta una serie di curiosità circa queste avventuriere. Le nostre protagoniste. Le nostre protagoniste di questa serata. Ok. Io direi, prima di ascoltare però un breve stacco musicale, poi partiamo con l'intervista, ok? D'accordo. Ok, a fra poco. La la la. Pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita, queda de así, sentada a la orilla del mar y las manos, llena de perla el sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto remedios, la la la la la. La la la la la, la la la la la, la la la la la. Tu historia una vez no las contó Dios, tu hermanito con su guitarra. Tú estaba dormida bajo la luna, tú estaba feliz. Pequeña Remedios, espera que un día yo pueda decirte te quiero, pequeña, te quiero, chiquita. Esperanza, tu canto es remedio. Espera que un día yo pueda decirte: te quiero, pequeña, chiquita, niñita, preciosa, pícola. Graditissima Maria Paola Fiorenzoli, che si interessa di storia di donne e che qui alla Casa Internazionale delle Donne di Roma ha tenuto alcuni seminari. Noi siamo rimaste piacevolmente sorprese e soprattutto piacevolmente interessate da questi aspetti che Maria Paola ha curato. E intanto lei si è interessata delle donne pirata. Quindi sembra una cosa molto particolare. Chi sono queste donne pirata e in quale periodo storico siamo? Cioè, dove le collochiamo? Ecco. Si potrebbe collocarle anche oggi, perché la pirateria esiste tutt'oggi e dove c'è la pirateria ci sono le donne. La pirateria cosiddetta storica è quella dal 500 all'800. Diciamo che si può parlare principalmente della pirateria in questo momento rispetto al 600 e al 700, anche un pochino di più, nella parte atlantica e sud-pacifica. La parte pacifica, per esempio, vede l'evento dei bucanieri, tra le quali il Macoe, che era regina dei bucanieri. Invece la pirateria e la corseria, propriamente detta, è quella che si svolge non in terraferma, ma sul mare, e si svolge sul mare in navi che vengono a loro volta spesso rubate, cioè a seconda della ricchezza della, dell'equipaggio la nave può essere costruita, comprata o rubata. Tanto per rimanere in quello che è stato un po' l'oggetto del seminario, cioè un lasso di tempo molto ristretto, diciamo tra il primo 700 e il primo 800, certamente nelle figure di pirate ce ne sono alcune che sono veramente avvincenti. Le loro vite superano qualsiasi immaginazione, potrebbero essere più che trame di romanzi, trame di molti romanzi. Più romanzi messi insieme. Più romanzi messi insieme, antologie proprio. Ecco. Ecco. La donna pirata è una figura estremamente complessa, è complessa da un punto di vista di immagine, perché è quella che lei, l'immagine che lei dà all'esterno. Una parte della pirateria è fatta anche di gente che viene coatta, viene presa prigioniera e per salvarsi lo fa. È un mondo molto sfaccettato, nella quale appunto l'audacia gioca sicuramente il ruolo principale, la forza di carattere. Seguita anche dalla forza fisica, perché le prove di una, a bordo di una nave pirata sono notevoli, anche come resistenza alle malattie, resistenza ai disagi, resistenza alla fame e alla sete, resistenza alla promiscuità, perché insomma il tutto è difficilissimo. In poi ci sarebbe la questione come loro affrontano questa esistenza e eventualmente, nel caso l'abbiano scelta, le motivazioni di questa scelta. Anche lì c'è un vasto ventaglio, perché c'è chi scappa di casa e finisce al porto, viene imbarcata e fa la vita della nave sulla quale si è imbarcata, senza diciamo una scelta oggettiva nel momento. Poi c'è chi invece ha dei sogni, cioè questa figura del pirata piace a oggi e piaceva un'altra all'epoca, quindi ha dei sogni, sogna la pirateria e la vuole fare. Altre cose sono invece l'amore per un pirata, seguire l'uomo che fa il pirata. Quindi se possiamo ritornare tranquillamente quindi al tema, no? Cioè che è appunto queste, chi sono queste donne pirate? Nel senso, come fanno quindi? Allora tu adesso hai affrontato l'inizio, no? del cappello generale, no? Allora, anche le figlie dei pirati. Le figlie dei pirati, cioè, è molto vario. Ma queste donne che quindi salvano con le navi e solcano i mari, c'entrano come donne, come uomini, travestite, come fanno a vivere sulla nave in questa promiscuità? Si sa che sono donne o no? E guarda, la gran parte della risposta deriva dal buonsenso. È ovvio che in una cosa che galleggia, che non può essere più lunga di 35 metri, 40, diciamo 50 nei casi migliori, larga una quindicina, nella quale si salta e non si tocca terra per mesi, pensare che veramente questo corpo femminile rimanga celato alla comunità è molto arduo. Però le storie che noi sappiamo, che derivano poi dai processi, non c'è nessuna pirata che ha mai confessato la sua vita raccontando come una nonna le sue disavventure o le sue avventure alle nipoti. Questi, tutto quello che si sa, derivano dagli atti processuali. Gli atti processuali sono informati in un certo modo, non tendono a capire le motivazioni per cui tu stai rischiando la forca, ne vogliono sapere le azioni che hai fatto. Ora, nell'esaminare questi atti processuali e soprattutto in questo c'è gli atti del capitano Johnson, che ha seguito in prima persona gran parte dei più grandi processi inglesi per pirateria, da quello che si evince dal punto di vista del comportamento, il comportamento è identico. Quello che fa la pirata fa il pirata e viceversa. E lo fa in tutti i momenti della sua quotidianità. Quindi queste persone, donne e uomini, affrontavano questa realtà. dagli altri del processo. Ti posso interrompere un attimo, mi viene da fare una semplice considerazione, no? Io credo che a volte la storia sia anche un po' ripetitiva, nel senso che ancora oggi le donne, quando hanno un lavoro, proprio perché donne, devono dimostrare di essere brave due volte di più rispetto ad un uomo che fa la stessa cosa. Allora, se, come hai fatto notare giustamente tu, la nave ha quella metratura ed è difficile che non ci si accorga di avere a che fare con una donna, il fatto di questa parità di compiti, pensi veramente che possa essere così paritaria, o la donna, proprio perché donna, aveva bisogno di affermare, cioè ancora di più, cioè succede ancora oggi? Io penso assolutamente che sia vero questo, che proprio perché il suo corpo femminile, il suo corpo sessuato era diverso da quello degli altri, dovesse per forza fare questo in più. Io rispondevo esclusivamente rispetto alla questione dei processi, cioè gli atti per i quali vengono processate sono i medesimi. Infatti vengono poi non graziate, ma saltano l'esecuzione e la forca e la loro pena capitale solo se sono incinte. Però donne incinte come Meredith, per esempio. Veniamo a loro. Saltano la pena proprio perché sono, però una volta diventate madri vengono separate dalla prole. E quindi, però noi infatti vogliamo parlare proprio di Mary Read e di Anne Bonny, come si dice? Anne Bonny, insomma. Anne Bonny, ecco. Loro due, perché di loro si favoleggia che siano poi siano incontrate e abbiano anche avuto poi una storia, no? Una storia d'amore, così si racconta. Probabilmente sì, nel senso che la storia di Mary Read e Anne Bonny è veramente una storia emblematica, proprio perché è un microcosmo nel quale chiunque può vedere qualsiasi cosa. Perché è una storia complessa, come dicevo prima, le vicissitudini di queste donne, di questi corpi sessuati sulle navi pirata, è una storia complessa, molto più difficile ancora di quella che si può fare in terraferma. Dalla nave non si può fuggire, non hai un angolo solo di intimità, non hai un solo momento di isolamento. Guardate la condizione di vita dello stare su una nave è molto diversa da quello dello stare anche in una prigione in terraferma. Ora, ritornando a Mary Read e Anne Bonny, poi una a morire in carcere prima della forca e l'altra, la quale si salvò perché si ruppe la corda. Questa è bellissima, allora bellissima. Si salvò perché si ruppe la corda. E per la legge inglese toccava terra, non si poteva essere condannata due volte. E lei si salvò così, infatti poi raccontò più tardi queste cose. I sentimenti non hanno età, non hanno sesso né volontà. Non c'è l'amore senza il tradimento, non c'è una storia che resista al tempo. I sentimenti non hanno lingua, non hanno scarpe, non hanno stringa. La libertà è una giustificazione, cambiare donna la tua soluzione. L'amore vola come un aquilone e la passione sposta la ragione. 3 anni insieme sono un lungo viaggio. Guardarti in faccia non c'è più coraggio, per l'insistenza non c'è la cura. Tu non sai niente, tu non sei pura. Nessuno ha riso, nessuno ha pianto. Non c'è la colla per il vaso infranto. Gocce di rugiada, un ombrello che fuori piove.

Ricapitolando, telefonando alla radio allo 06 49 17 50 e il nostro cellulare per i messaggi 339 853 6270. Per ascoltare le nostre trasmissioni mfla.noblogs.org e se siete su Facebook CLR Donna e la nostra mail è contatti@clrbp.it. La storia di Mary Read e di Anne Bonny sono quella di due tremende pirate. Proprio già nella storia della pirateria loro eccellono, perché non tutte sono state brave come loro, o bravi come loro. Ecco. Loro sono state processate in Giamaica nel 1720 e gli atti processuali sono stati raccolti appunto dal capitano Johnson. Ora, la storia di Mary Read è iniziata con un travestimento, perché sua madre era la moglie di un marinaio, aveva un bambino piccolo e il marito l'ha abbandonata. Ora, siccome la suocera dava un mensile, dava qualche cosa, contribuiva al mantenimento del nipote, lei, per non perdere questo emolumento, è andata a partorire in campagna. Perché lei era rimasta incinta nuovamente. E la secondogenita, Mary è la secondogenita. Il fratellino però muore, lei non dice alla suocera che è morto e quella continua a sborsare i soldi e lei tira su questa bambina travestita. Ma in realtà lei è talmente convinta di avere un nipotino che quando è dodicenne, tredicenne lo manda a fare da balletto a una dama francese. E quindi la nostra Mary continua a indossare abiti maschili dalla più tenera infanzia, non li mette mai quelli femminili e poi si stufa, dice io che ci faccio qui a pettinare, portare i libri, incipriare, via dicendo, scappa e decide di darsi a un'altra vita. Ecco. Però lo fa tenendosi gli abiti maschili addosso, perché senza di quelli non avrebbe potuto farlo. Nel processo non è detto mai se lei fosse contenta di essere vestita da maschio o non lo fosse. Vero è che tutta la sua vita dimostra che quando ha potuto si è vestita da maschio. Mary dimostra di aver scelto proprio quando incontra Calico Jack e si infatua della donna, dell'uomo di Calico Jack, che in realtà è un'altra donna travestita, cioè Anne Bonny. Okay. Allora, perché prima di essere pirata, lei era soldato. Questa bambina vestita da maschio, che viene cresciuta non sappiamo se sua madre, il problema, guardate, è un problema vero, non sappiamo come la madre si rivolgesse a questa creatura e come se la sua compagine familiare o altri sapessero di questa frode. Nel migliore dei casi la vestita da maschio la trattata da maschio, uh-huh. E quindi gli ha dato questo senso. Quando scappa per non fare più il balletto, Mary diventa soldato, prende la divisa, diventa un cadetto e entra nell'esercito olandese, dove fa la sua carriera militare. Vita militare. E lei da militare andava al Pacifico a fare la guerra, è stata abbordata dai pirati e lei è diventata preda di questi pirati. Ora, che i pirati si siano accorti o non accorti che tra i soldati che avevano preso ci fosse una donna, qui ci vuole il tavolino a tre gambe, però probabilmente sì, perché appunto stante il fatto che era quello che è, la promiscuità è quello che è, fatto sta che comunque lei lì ha cominciato a dimostrare una audacia, un coraggio, un cinismo, un'aggressività, si è sfogata, diciamo, in tutti i modi, per cui è diventata capitano di questa nave. Della nave pirata. E se non era capitano, perché gradi non ci sono nella pirateria, era sicuramente una persona di riferimento, perché questo esce fuori dal processo, che lei ha deciso insieme al suo equipaggio di ridursi poi nelle Bahamas perché, per andare a chiedere perdono, perché il re d'Inghilterra aveva promesso ai pirati il perdono se si fossero consegnati. Lei si reca alle Bahamas, siamo nel 1717, e in questo porto, tra le molte navi pirate che sono all'ancora, c'è anche quella di Calico Jack. Ed è lì che Mary Read incontra Calico Jack e incontra questa persona di cui si invaghisce che è alla quale fa la corte, e quindi lì è tutto da capire. Se lei facesse la corte da donna vestita da maschio o se lei facesse la corte da maschio vestita da donna, cioè là è intrigante, è molto intrigante, no, perché appunto si parla di sfaccettature. Il fatto sta che lei fa una corte spietata a quella che, a quello che dovrebbe essere l'amante maschio di Calico Jack, che invece le rivela di essere anche lei una donna. Lei dice, no, guarda, sono una donna anch'io. Ora, cosa succede? Succede che le due navi, i due equipaggi si uniscono, tutti e due equipaggi decidono che il perdono era inutile chiederlo, era meglio la pirateria, ecco, rubano una terza nave e partono su questa nave, carico, Mary, Anne, tutti i loro equipaggi, e per 3 anni si danno alla pirateria più sfrenata, sul Candy Mari. Ora, che sicuramente l'attrazione di Mary Read verso Anne Bonny fosse un'attrazione sincera, questo è indubbio, perché poi viene anche detta e tutto quanto. Però loro minimo sono bisessuali, perché quando sbarcano a Cuba sono incinte tutte e due, quindi è per questo che dico la questione dell'identità, di come un'identità sessuata cambia, si modifica o si mantiene all'interno di situazioni date, non è una cosa stupida, è una cosa importantissima, e queste pirate sono uno degli esempi più travolgenti, cioè come questa, che cosa è Mary Read? Cioè, no, ma rispetto poi all'ipotesi delle diverse sfaccettature che tu stavi elencando prima, io faccio un'altra considerazione che mi viene in mente. Se Anne era l'amante di Calico Jack, dubito che Calico Jack l'abbia ceduta così en passant e facilmente, cioè avrà comunque preteso i suoi diritti, per cui volente o nolente, desiderava di starci insieme o no, comunque stavano insieme. Un triangolo di fuoco su quella nave, minimo c'era un triangolo di fuoco, anzi un quadrangolo, perché poi ci devi mettere l'altro in qualche modo con me. Certo. Per cui fatto sta che però questo sodalizio di affetti e di interessi pirateschi dura intonso per 3 anni, che rispetto al tipo di vita, alle attese anche di vita, alla situazione, dicendo, è una relazione a vita, cioè questi 3 o 4 hanno fatto un sodalizio speciale, e quindi sono speciali anche in questo, accumuliamo specializzazioni, certo. Accumuliamo eccellenze, accumuliamo. Poi che due donne riescano, che è impossibile, assolutamente impossibile che l'equipaggio non lo sapesse, tant'è vero che loro si vestivano da donne quando scendevano a terra a fare le compere e poi si rivestivano da uomini quando stavano sulla nave a pirateggiare. Ecco, è ancora più interessante la cosa, perché loro si vestivano da donne, essendo donne, biologicamente donne, per confondere le idee, salvare la nave che stava all'ancora, cioè fare tutta quell'attività spionesca che accompagna l'attività piratesca, perché tu devi anche sapere, cioè l'attracco in mare è una cosa, ma poi c'è un'attività nei porti, quindi queste figure si aumentano di sfaccettature ancora, cioè è una vita piena di emozioni, una vita piena di pericoli, è una vita esagerata, come dice una certa canzone. Certo, e poi lo spionaggio nasce dopo, ma in realtà evidentemente era stato fatto già prima. Allora, cosa facessero a terra Mary e Anne e se fosse quello che facevano sulla nave o non lo facevano, insomma è tutta una questione aperta. Ma aperta nel senso dell'appunto del prisma, dell'aggiunta, non della separazione. Certamente. È un'aggiunta di sentimenti, un'aggiunta di relazioni, un'aggiunta di esperienze anche sessuate a questo punto. Ecco. Ora, loro due vengono descritte sempre nelle carte processuali, ritorno sempre lì perché è quello che ci fa vedere questo film, come le più audaci di tutto questo equipaggio. Quando loro vengono prese, catturate da questa nave militare, probabilmente sul finire del 1720, perché poi i processi duravano poco. Non c'avevano le cifre veloce. Loro vengono descritte, passano davanti alle loro vittime, vengono chieste dei testimoni, quindi loro vengono descritte in abiti maschili, intente ad azioni ferocissime, proprio molto sanguinose, ecco. E le loro vittime le indicano come capi di questa nave pirata, proprio per la loro ferocia. Proprio per la loro ferocia. E poi ovviamente si coniuga questo la capacità di maneggiare le armi. Cioè, di maneggiare avere il coltello, devi essere in grado di usare le armi. Ora, appunto, diversamente dai compagni, Mary e Anne non furono, cioè furono messe in carcere perché erano tutte e due incinte. E una morì e l'altra sopravvisse e sopravvisse anche alla forca. Anche perché poi erano due figure così diventate leggendarie, di riferimento, che veramente non si può neanche sapere se veramente lei sopravvisse alla forca, molto probabilmente sì, anche perché poi c'erano contiguità intorno alla forca, c'era tutto. Infatti un'altra versione che ho letto io, addirittura si parlava che Anne, che è questa che è sopravvissuta, praticamente c'ha avuto una tresca con un giudice che poi l'ha fatta scappare, che in realtà fu solo una messa in scena. Ci sono tante versioni che narrano di questa cosa, però secondo noi la cosa importante è che di pirati si è sempre parlato tantissimo e raccontando le gesta, però non è mai venuta fuori la possibilità che non fossero soltanto uomini. Certamente non una grossa parte, perché di solito appunto il luogo, la situazione, la condizione non era facilissima come mestiere. Però per esempio la parte del travestitismo, che è una parte importantissima nella pirateria, quasi necessaria nella pirateria, Anne, in questo caso Anne Bonny, che era un'irlandese, anche lei l'ha vissuta fin da piccola. Cioè anche lei l'ha introiettata perché suo padre se la voleva, era figlia della cameriera di questo avvocato, e per celarla, non sappiamo se la madre l'ha vestita da femmina all'inizio, non lo sappiamo, però sappiamo che a un certo punto suo padre l'ha presa in casa come segretario e l'ha vestita da maschio per nasconderla alla moglie. Poi quando la moglie ha scoperto che quella che era segretario era invece una segretaria, lui cosa ha fatto quest'uomo? Questo avvocato ha preso la cameriera e la figlia, cioè la sua amante e la sua figlia, e se l'è andata in Carolina a fare il piantatore. Però, perché le contraddizioni della vita sono strane della vita, Ecco, quando la figlia si è innamorata di uno senza un soldo e l'ha voluto sposare a tutti i costi, lui la diseredata. Ecco, e adesso quindi noi vediamo Anna a questo punto vestita da femmina, con abiti da indaga quasi, insomma, da figlia di ricca cantatore, che va con questo marito appunto a Cuba, no a Cuba scusate, mi sembra le Bahamas, e apre una locanda. Apre una locanda dove fa la cuoca, la cameriera, lo stessa, via dicendo, e poi rimane vedova. Rimane vedova e cosa fa? Si rimette gli abiti maschili, per, appunto, incontra Carico Jack e inizia un'altra storia. E quindi sono proprio tutti i meccanismi in cui l'opportunità del lavoro, cioè per fare il lavoro da pirata tu ti devi vestire da pirata, da maschio. Il tipo di lavoro che è assolutamente assegnabile al maschile è così in senso lato, sempre con un'idea neanche troppo giusta della dolcezza femminile che è difficilmente proprio in questi casi raccomandabile, e dove questi due elementi si coniugano con il desiderio di libertà, con le condizioni che ti dà la società per essere libera, e in questo caso travestirsi, il desiderio vero e proprio di saltare il fosso e di vivere una vita tutta al maschile, però conservando in alcuni casi sentimenti, identità femminili, che sono sempre lì come il fuoco sotto la cenere, al momento buono ritornano su. Certo. Ora, questa barca di Anne e di Mary è veramente una barca incredibile sulla quale ci si potrebbe fare un film meraviglioso. Certo. E fare analisi approfondite, proprio perché loro hanno uno spettro di situazioni tali che li coprono praticamente tutto. Certo. Sai, la cosa che a me quando ci stanno delle cose da guardare, no? Poi è chiaro che ognuna che guarda la interpreta dal proprio punto di vista, no? Quindi tu hai detto giustamente che questa storia è ricca di innumerevoli sfaccettature. Chiaramente io, siccome sono lesbica e femminista, mi piace dargli un'interpretazione tutta mia, che poi sia reale o no non è dato saperlo, però diciamo che nella lettura della storia che tu ci hai appena raccontato mi va di vedere alcune delle innumerevoli sfaccettature che personalmente mi piace mettere in risalto, e sono assolutamente fondamentali, perché come tu dicevi all'inizio, le donne che poi finivano su queste navi pirate potevano finirci perché erano le figlie dei pirati, erano state rapite e costrette alla pirateria, si innamoravano del pirata, lo sceglievano loro, cioè non si sa, mettiamo che non si sa come, ma arrivano su queste navi, ok? La particolarità e la sfaccettatura di Anne e Mary che a me piace mettere in risalto è che magari non sappiamo il motivo per il quale sono finite, veramente il motivo per il quale sono finite in questa nave, ma hanno fatto della loro condizione una scelta. Loro, questo esce dai processi, se no non staremo qui a parlare. Le figure di Anne e di Mary sono due figure forti, eccellenti, come dicevo prima. Loro dal processo escono a tutto tondo, escono tanto da diventare leggende, come si diceva prima, escono tanto da saper attirare l'attenzione già in un'epoca in cui l'attenzione per queste cose era abbastanza notevole. Insomma, poi non c'erano i mezzi di comunicazione odierni, quindi diventare famose nel 1720 voleva dire essere un grosso personaggio. Certo. Però è proprio quello che ha intrigato moltissimo anche la contemporaneità, è proprio questa identità, dichiarata e poi nascosta, vissuta o non vissuta, portare avanti o non portare avanti, che poi Mary Ann, che Mary abbia avuto un'infatuazione per Anne, questo è proprio l'origine del motivo per cui lei ha lasciato il suo equipaggio ed è salita sulla nave di Calico, quindi questo è sicuro. Però si è sentita dire io sono una donna, certo. Cioè queste sono le sue parole. Poi nelle loro parole, sempre nel processo, per non superare le persone, c'è sicuramente una storia d'amore tra di loro, perché c'è un'amicalità che va oltre qualsiasi amicalità, cioè lì ci si difende per la vita, certo, si trova fianco a fianco, ma condivide tutto e non ci si lascia. Io punterei molto su questa cosa, il non lasciarsi, perché guardate, almeno nelle relazioni amorose la cosa più normale è a un certo punto finire e lasciarsi dopo un determinato periodo che può essere brevissimo o lunghissimo, però a un certo punto le due parti si separano. Ecco, il non separarsi e rimanere insieme e in questo strano triangolo quadrangolo, ma insomma comunque rimanere insieme, era chiaro che erano loro due i cardini del rimanere insieme, perché sia Calico, che aveva il suo equipaggio già prima e poi dopo, e altri pirati di quella nave stanno insieme con loro, ed è interessantissimo che nel processo si parla sempre di loro due, lo stesso equipaggio è rimasto impressionato da questa, come dire, idea a due teste, insomma, questo personaggio doppio che aveva sulla tolda della nave, questa realtà doppia che loro conoscevano benissimo, perché tra l'altro appunto si vestivano da donna e andavano a terra, quindi non... Io direi che può bastare, mi sembra di sì. Sembra che se abbiamo... Posso fare una domanda fuori da... Sì. Sì. Posso. Ma dagli atti del processo viene fuori se ad esempio qualcuno di loro è stata incriminata per il fatto di aver indossato abiti maschili, cioè al di là del discorso appunto delle loro scorrerie, delle loro... No, per loro questo, cioè, degli abiti maschili era una delle imputazioni. Ecco, perfetto, appunto, volevo saperlo perché non l'avevo capito. Però, no, indossare abiti maschili per una donna era un reato, cioè, ma questo è dato per scontato. Perfetto. Però era un reato che non comportava la pena di morte. Il indossare abiti maschili era un reato gravissimo, esatto, che prendeva sull'immoralità della persona e comportava pene severissime. Ora la storia pullula di esempi positivi di donne libere che anche nel passato hanno vissuto nella loro interezza. Il problema è che non ci viene raccontata. Certo. È molto meglio tacerle certe cose. Però tutte queste sono storie di libertà. Certo. Sì. Sono storie di libertà e di autodeterminazione, certo. Di forza e di espressione di propria identità sessuata. Certo. Perché nessuno potrà mai convincermi che loro non sapessero cosa facevano. Cioè, sapevano benissimo cosa facevano, certo. E volevano fare, si spera che si divertissero là. Sì, certo. I pirati ci piacciono. I pirati sono bellissimi. Va bene. Maria Paola, grazie. Grazie tante, Maria Paola, ci hai deliziato con questo racconto. Grazie a voi. Grazie a voi. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got